3. Chi va piano, va sano e va lontano. La fede di una donna sappia trarre con nobiltà, come a cosa alta si addice, con coraggio ne andasse della tua vita, lealmente, senza arretrare. Fai che esca dalle stanze festose e a vederla sia il cielo stellato, a guardarla siano le tue parole di amore vero e strane a false lusinghe. Mrs. Browning. Il signor Harry Lennox. Margaret stava pensando a lui proprio un attimo prima, ricordando tutte le domande sulle sue possibili occupazioni nella casa di Helston. Fu un parler du soleil et l'on voit les rayons, ossia si parla del sole e si vedono i raggi. E i raggi del sole raggiunsero il volto di Margaret quando posò la tavola da disegno e si fece avanti per salutarlo. «Vai ad avvisare la mamma, Sara», disse. «Io e la mamma abbiamo così tante domande da farvi su Edith. Vi sono infinitamente grata per essere venuto». «Non ho forse detto che l'avrei fatto?» chiese lui con un tono di voce più basso di quello di lei. «Ma vi sapevo in qualche posto sperduto nelle Highlands e non pensavo l'Hampshire potesse rientrare nel vostro itinerario». «Oh!» disse lui in modo più frivolo. «La nostra giovane coppia si comportava in modo così sciocco, correndo rischi di ogni tipo, scalando questa montagna, andando in barca su quel lago, che ho seriamente pensato avessero bisogno di un mentore che badasse loro. Proprio così sfuggivano al controllo di mio zio, tenendo l'anziano signore nel panico 16 ore su 24. Infatti, da quando mi sono accorto che non ci si poteva fidare di lasciarli da soli, ho ritenuto mio dovere restare con loro finché non li ho visti al sicuro sulla nave a Plymouth». «Siete stati a Plymouth?» «Oh, Edith non l'ha mai nominata. A dire il vero, ha scritto con una tale fretta negli ultimi tempi. Sono davvero salpati martedì?» «Davvero, e così mi hanno sollevato da parecchie responsabilità. Edith mi ha dato svariati messaggi per voi. Credo di avere un bigliettino da qualche parte. Sì, eccolo qua». «Oh, vi ringrazio», esclamò Margaret. E quindi, dal momento che una parte di lei desiderava leggerlo da sola, si inventò la scusa di andare ad avvisare nuovamente la madre del suo arrivo. Sicuramente Sara aveva sbagliato qualcosa. Dopo che Margaret ebbe lasciato la stanza, il signor Lennox iniziò a guardarsi attorno con il suo fare investigativo. Il piccolo salotto appariva al meglio nella luce del mattino. La finestra centrale del bovindo era aperta e rose a grappolo e caprifogli scarlatti facevano capolino da dietro l'angolo. Il giardinetto era incantevole con i suoi fiori di verbena e i gerani di tutti i colori più vivaci. Tuttavia la luce fuori era così forte da far sembrare sbiaditi e opachi i colori all'interno. La tappezzeria era piuttosto vecchia, il cinz era stato lavato spesso. Tutta la stanza era più piccola e misera di come doveva essere, secondo lui, lo sfondo che incorniciava una donna così regale come Margaret. Prese uno dei libri che erano sul tavolo. Era il Paradiso di Dante, nella sua antica rilegatura italiana di pergamena bianca decorata in oro. Accanto a questo c'era un dizionario e alcune parole trascritte con la grafia di Margaret. Era una semplice lista, ma per qualche ragione gli piaceva guardare quei termini. Ripose l'elenco con un sospiro. «I loro mezzi sono chiaramente modesti, come ha detto. Sembra strano dal momento che i Beresford appartengono a una buona famiglia». Nel frattempo Margaret aveva trovato sua madre. La signora Hale era in una delle sue giornate storte, quando tutto era difficile e faticoso, e l'arrivo del signor Lennox prese questa forma, sebbene il pensiero della sua visita segretamente la lusingasse. «Capita proprio a sproposito. Mangeremo presto oggi e non altro che dell'arrosto freddo, così le domestiche potranno andare avanti con il bucato, ma è ovvio che dobbiamo invitarlo a cena. È il cognato di Edith e tutto il resto. E stamattina tuo padre così giù di morale per qualcosa, non so cosa. Sono appena stata nel suo studio ed era lì con le mani sul viso e la testa appoggiata sul tavolo. Gli ho detto che sicuramente l'aria di Helston non fa più bene né a lui né a me ormai, e ha sollevato subito il capo e mi ha pregato di non proferire più parola contro Helston. Non poteva sopportarlo. Se c'era un posto che amava al mondo era Helston, ma sono certa che quest'aria snervante e umida sia la causa di tutto». Margaret si sentì come se una nube densa si fosse frapposta tra lei e il sole. Aveva ascoltato pazientemente, nella speranza che sfogarsi un po' potesse giovare a sua madre, ma era ora di ritornare dal signor Lennox. A papà piace il signor Lennox. Si sono trovati proprio bene insieme alla colazione di nozze. Io dico che a papà la sua visita farà bene e non preoccuparti per la cena, cara mamma. L'arrosto freddo va benissimo per pranzo. Probabilmente è così che il signor Lennox intende una cena alle 2 del pomeriggio. Ma cosa facciamo con lui fino ad allora? Sono appena le 10 adesso. Beh, gli proporrò di uscire con me a fare 2 schizzi. So che disegna e così te lo toglierò di torno, mamma. Ora però vieni dentro o penserà che c'è qualcosa che non va. La signora Hale si tolse il grembiule di seta nero e si lisciò il viso. Aveva la grazia e i modi di una gentildonna mentre salutava il signor Lennox con la cordialità che si riserva a chi è quasi un parente. Era evidente che lui si aspettava di essere invitato a trascorrere tutta la giornata lì e fu così lieto di accettare, senza alcuna esitazione, che la signora Hale desiderò poter aggiungere qualcosa alla carne di manzo fredda. Gli piaceva tutto, era molto contento dell'idea di Margaret di uscire insieme a disegnare, non avrebbe disturbato il signor Hale per nulla al mondo, con la prospettiva di vederlo poco dopo a cena. Margaret tirò fuori i suoi materiali da disegno affinché lui potesse scegliere e dopo aver debitamente selezionato fogli e pennelli, i due uscirono più felici che mai. Adesso vi prego, fermatevi qui per qualche minuto, disse Margaret. Questi sono i cottage che mi hanno ossessionata durante le 2 settimane di pioggia, facendomi sentire in colpa per non averli ritratti. Prima di crollare e scomparire per sempre, sinceramente, se dobbiamo disegnarli, e infatti sono molto pittoreschi, faremo meglio a non rimandare al prossimo anno. Ma dove ci sediamo? Oh, ma da dove arrivate? Direttamente dai saloni di Temple? Mi pare invece che da 2 mesi nelle Highlands. Guardate questo bel tronco d'albero che i taglialegni hanno lasciato proprio in un posto ideale per la luce. Ci metterò la mia coperta, così sembrerà un vero e proprio trono della foresta. E i vostri piedi in quella pozzanghera, come su un poggiapiedi regale? Aspettate, vado avanti io, così poi voi potrete venire da questa parte. In questi cottage chi ci vive? Oh, li hanno costruiti abusivamente 50 o 60 anni fa. Uno è disabitato. I guardiaboschi vogliono demolirlo, aspettano che muoia il vecchio che vive nell'altro, pover'uomo. Guardate, eccolo lì. Devo andare a salutarlo, è così sordo che sentirete tutti i nostri segreti. Il vecchio stava sotto il sole col capo scoperto, appoggiato al suo bastone sull'uscio di casa. I lineamenti duri si ammorbidirono in un sorriso stentato quando Margaret si avvicinò per parlargli. Il signor Lennox abbozzò frettolosamente le 2 figure nel suo schizzo e concluse così il paesaggio con quel piccolo particolare. Come Margaret capì quando venne il momento di alzarsi, buttare via l'acqua e i pezzi di carta e di mostrare l'uno all'altro i disegni. Lei rise e arrossì. Il signor Lennox osservava attentamente la sua espressione. Beh, questo è sleale, disse. Ho avuto il vago sospetto che io e il vecchio Isaac fossimo diventati i soggetti del vostro disegno quando mi avete chiesto di domandargli la storia di questi cottage. Non ho potuto resistere. Non immaginate quanto sia stata forte la tentazione. Quasi non oso dirvi quanto mi piace questo schizzo. Non era sicuro che lei avesse sentito quest'ultima frase prima di andare a ruscello a lavare la sua tavolozza. Tornò tutta rossa in viso, ma con l'aria completamente innocente e ignara. Lui ne fu contento, poiché le parole gli erano sfuggite di bocca. Una cosa rara per un uomo che premeditava tutte le sue azioni come il signor Lennox. Quando arrivarono, la casa pareva luminosa e in ordine. Il volto della madre si era rasserenato grazie a un paio di carpe che un vicino le aveva regalato proprio al momento giusto. Il signor Hale era tornato dal suo giretto mattutino e aspettava l'ospite appena fuori dal cancello del giardino. Sembrava un vero e proprio gentiluomo con il soprabito e il cappello, entrambi un po' consunti. Margaret era fiera di suo padre, provava e riprovava ogni volta un tenero orgoglio nel vedere che faceva sempre una bella impressione sugli estranei. Ma alla sua vista acuta non sfuggirono i segni di un insolito turbamento sul suo viso, che veniva solo messo da parte, ma non cancellato. Chiesero al signor Hale di dare uno sguardo ai loro schizzi. Credo che tu abbia scurito un po' troppo la paglia del tetto, non trovi? Disse restituendole il disegno e fece per prendere quello del signor Lennox, che lo trattenne per un istante, non di più. No, papà, io non credo. Il semprevivo e l'erba grassa si sono scuriti molto con la pioggia. Non ti sembra rispecchi la realtà, papà? Disse lei, sbirciando da sopra la spalla mentre lui osservava le figure nel disegno del signor Lennox. Sì? Molto? La tua figura e la tua posizione sono eccellenti, ed è così che il povero vecchio Isaac sta rigidamente piegato in avanti, con la schiena per i reumatismi. Che cos'è questa cosa che pende dal ramo dell'albero? Di certo non è un nido di uccelli. Oh no, è il mio cappellino. Non riesco mai a tenerlo su mentre disegno, mi fa troppo caldo alla testa. Chissà se a me riescono bene le figure. Ci sono così tante persone qui intorno che mi piacerebbe ritrarre. Io direi che si riesce sempre a riprodurre fedelmente qualcosa se lo si desidera davvero, affermò il signor Lennox. Ho una gran fede nel potere della volontà. Io stesso penso di esserci riuscito nel ritrarre voi. Il signor Hale li aveva preceduti in casa, mentre Margaret si era fermata a raccogliere alcune rose con le quali adornare il suo abito da giorno per la cena. Una qualsiasi ragazza di Londra capirebbe il significato implicito di quelle parole, pensò il signor Lennox. Si metterebbe a esaminare tutti i discorsi di un giovanotto alla ricerca di un arrière-pensée, di un secondo fine, dietro a un complimento. Ma non Margaret. Aspettate, disse lui, lasciate che vi aiuti. E raccolse alcune rose vellutate color cremisi che lei non riusciva a prendere. Poi, spartendo il bottino, se ne mise due nell'occhiello della giacca e la spedì dentro, felice e contenta, a sistemare i suoi fiori. Durante la cena la conversazione fluì piacevole e tranquilla. Entrambe le parti avevano molte domande da porre sugli spostamenti della signora Shaw in Italia, che si riferirono a vicenda, e riprendendo il discorso precedente sulla semplicità senza pretese della canonica, soprattutto vicino a Margaret, il signor Lennox dimenticò quel leggero disappunto che aveva provato all'inizio quando si era accorto che era stata sincera nel definire molto esiguo il beneficio del padre. Margaret, figliola, potevi andare a raccogliere qualche pera per il nostro dessert, disse il signor Hale, quando una bottiglia di vino, appena travasata, un lusso riservato agli ospiti, venne messa sul tavolo. La signora Hale sentì una certa pressione. Sembrava che il dessert non ci fosse o fosse una cosa insolita nella canonica, e invece, se il signor Hale si fosse girato, avrebbe visto biscotti, marmellata e altro ancora, tutto ordinato con gran formalità sulla credenza. Ma il signor Hale si era fissato con le pere e non si sarebbe tolto dalla testa quell'idea. Ci sono alcune pere beurrée, marroni, vicino al muro a sud, degne di paragone con qualsiasi frutto o conserva stranieri. Corri, Margaret, e portane qui qualcuna. Propongo di spostarci in giardino e mangiarle lì, disse il signor Lennox. Non c'è niente di meglio che mordere un frutto croccante e succoso, caldo e che profuma di sole. La cosa peggiore è contenderselo con le vespe, così insolenti che attaccano quasi sempre nel momento di massimo godimento. Si alzò come per seguire Margaret, che era scomparsa dietro la finestra. Aspettava soltanto il permesso della signora Hale. Lei avrebbe preferito concludere la cena come si conveniva e con tutte le cerimonie che fino a quel momento erano filate lisce come l'olio, soprattutto quando lei e Dixon avevano tirato fuori dalla dispensa gli sciacquadita per dimostrare così di essere la degna sorella della vedova del generale Shaw. Ma siccome il signor Hale si alzò subito e si accinse ad accompagnare il suo ospite, non poté fare altro che arrendersi. Dovrei armarmi di coltello, disse il signor Hale. Sono finiti per me i tempi in cui un frutto lo prendevo e lo mangiavo così come avete descritto voi, e devo sbucciarlo e tagliarlo in quarti prima di gustarmelo. Margaret usò come piatto una foglia di barbabietola rossa che metteva perfettamente in risalto il marrone dorato delle pere. Il signor Lennox guardava lei più che le pere. Tuttavia suo padre, intenzionato a godersi ogni singolo istante di quell'ora di piacere rubato alla sua afflizione, scelse elegantemente il frutto più maturo e si sedette sulla panchina del giardino per gustarselo con calma. Margaret e il signor Lennox passeggiarono lungo il porticato sotto il muro a sud, dove le api continuavano a ronzare operose intorno ai loro alveari. Sembra perfetta qui la vostra vita. Finora ho sempre disprezzato i poeti e i loro sogni. Sì, alla mia un'umile dimora accanto alla collina e bla bla bla, cose simili. Ma ora temo che la verità sia un'altra. Non sono altro che un londinese, un cockney. In questo momento ho l'impressione che un anno di questa vita così squisitamente serena possa ricompensare 20 anni di faticosi studi di legge. Che cielo! Guardando in alto, che colori quelle foglie, così rosse e ambrate, così perfettamente immobili, indicando alcuni alberi della foresta che racchiudevano il giardino come se fosse un nido. Vi farà piacere ricordare che i nostri cieli non sono sempre così blu come li vedete ora. Abbiamo la pioggia, eh? E le nostre foglie cadono e si infradiciano. Nonostante ciò, penso che Helston sia il più bel posto al mondo. Vi ricordo il vostro disprezzo quella sera in Harley Street quando ve l'ho descritto, il paesino di una fiaba. Disprezzo, Margaret, è un termine piuttosto forte. Forse lo è, solo che mi avrebbe fatto piacere parlarvi di quello che mi premeva dentro allora e voi, come devo dire, quindi avete parlato senza rispetto di Helston, definendolo il banale paesino di una fiaba. Oh, non lo farò più, disse affettuosamente. Girarono l'angolo del viottolo. Potrei quasi desiderare, Margaret. Esitò un istante. Era così insolito che l'eloquente avvocato esitasse che Margaret lo guardò con aria stupita e inquisitoria, ma improvvisamente, cosa andasse in lui non lo sapeva, avrebbe voluto essere di nuovo con sua madre e suo padre, ovunque, lontano da lui, poiché era certa che stava per dire qualcosa a cui lei non avrebbe saputo rispondere. Un attimo dopo, l'orgoglio che le era proprio venne fuori ed ebbe la meglio su quell'improvvisa agitazione che sperava lui non avesse percepito. Certo che avrebbe saputo rispondere e dare la risposta giusta. Per lei era ignobile e meschino tirarsi indietro di fronte a un qualunque discorso, come se non avesse il potere di interromperlo senza perdere il suo innocente decoro. Margaret, disse lui cogliendola di sorpresa e prendendole all'improvviso la mano, così che lei si sentì costretta a fermarsi e ad ascoltare indispettita perché il suo cuore continuava a battere forte. Margaret, vorrei che Helston non vi piacesse così tanto, che voi non foste così tanto tranquilla e felice qui. Negli ultimi 3 mesi ho sperato di scoprire che rimpiangevate Londra e gli amici di Londra almeno un po', quanto basta per farvi ascoltare a cuore aperto. Mentre lei, lentamente ma con decisione, stava tentando di liberare la mano dalla sua presa. Uno che non ha molto da offrirvi, è vero, soltanto prospettive per il futuro, ma che vi ama. Margaret, quasi suo malgrado. Oh, vi ho spaventata troppo, Margaret, dite qualcosa. Vedeva infatti che le tremavano le labbra come se fosse sul punto di piangere. Si sforzò di restare calma, non avrebbe parlato finché non fosse riuscita a controllare la sua voce. Dopodiché disse: Oh, mi avete colta di sorpresa. Non immaginavo di interessarvi in quel senso. Ho sempre pensato a voi come a un amico e vi prego. Io preferisco continuare a pensarvi tale. Non mi piace che mi si parli come voi avete fatto. Non posso darvi la risposta che volete, ma sono io a sentirmi desolata se vi ho contrariato. Margaret, disse lui guardandola dritto negli occhi e incontrando il suo sguardo aperto e diretto che esprimeva quanto fosse in buona fede e non volesse ferirlo. Forse, faticava a dirlo, amate qualcun altro? Eppure sembrava che questa domanda fosse quasi un insulto alla purezza di quegli occhi. Perdonatemi, sono stato troppo brusco, che sia punito. Lasciatemi soltanto sperare, datemi una misera consolazione e ditemi che non avete conosciuto nessuno che potreste. Ci fu un'altra pausa. Non riuscì a finire la frase. Margaret si sentiva profondamente in colpa per essere la causa del suo dolore. Ah, se soltanto non vi foste mai messo in testa quest'idea, era un tale piacere pensare a voi come a un amico. Ma posso o non posso sperare, Margaret, che un giorno penserete a me come a un innamorato? Non adesso, capisco, non c'è fretta, ma un giorno. Lei restò in silenzio per qualche minuto, cercando di scoprire la verità nel suo cuore, prima di rispondere. Poi disse: Non ho mai pensato a voi che come a un amico. Mi piace pensare a voi in questo modo. Sono sicura che non potrò mai pensarvi diversamente. Vi prego, Dimentichiamo entrambi che questa spiacevole stava per dire, ma si fermò in tempo. Questa conversazione abbia avuto luogo. Lui fece una pausa prima di rispondere. Poi, con la solita freddezza, disse: Certo, dato che siete così sicura dei vostri sentimenti e che evidentemente questa conversazione è stata così spiacevole per voi, è meglio dimenticarla. In teoria tutto questo mi sta bene, questa idea di dimenticare tutto ciò che fa male, ma sarà comunque difficile, almeno per me, metterla in pratica. Oh, siete rimasto male, replicò lei triste. Come posso aiutarvi? Nel dire questo sembrava provare un dolore così sincero che lui lottò per un attimo contro il suo reale disappunto e poi rispose più serenamente, anche se il suo tono era ancora lievemente duro. Beh, dovreste considerare la mortificazione non solo di un innamorato, Margaret, ma di un uomo poco propenso all'amore in generale, prudente, di mondo, come mi definiscono alcuni, che è stato traviato dalle solite abitudini, dalla forza della passione. Bene, non ne parleremo più. Ma quell'unica volta che quell'uomo dà sfogo ai sentimenti più profondi e onesti della sua natura, viene rifiutato e respinto. Oh, mi consolerò ridendo della mia stessa follia. Un agguerrito avvocato che pensa al matrimonio. A questo Margaret non riuscì a rispondere. Il suo tono la infastidì, sembrava toccare e far emergere tutti quei lati di lui così diversi dai suoi che l'avevano spesso disgustata, e allo stesso tempo lui era l'uomo più gradevole, l'amico più comprensivo, la persona che più la capiva in Harley Street. Provò un certo disprezzo oltre al dolore per averlo rifiutato. Le sue belle labbra si curvarono, rivelando un lieve disdegno. Fu un bene che, completato il giro attorno al giardino, si imbatterono inaspettatamente nel signor Hale, della cui posizione si erano dimenticati. Non aveva ancora finito la sua pera, che aveva delicatamente sbucciato in una lunga striscia sottile come carta argentata, e che si era preso la libertà di assaporare. Era come la storia del re indiano che al comando del mago immerge la testa in un secchio d'acqua e prima di tirarla velocemente fuori si vede passare tutta la sua vita davanti. Margaret si sentiva stordita e non riusciva a ritornare abbastanza in sé per unirsi alla banale conversazione tra il padre e il signor Lennox. Era seria e poco disposta a parlare. Si chiedeva quando il signor Lennox se ne sarebbe andato, permettendole di pensare in pace agli eventi dell'ultimo quarto d'ora. Lui era tanto ansioso di partire quanto lo era lei che se ne andasse, ma una chiacchierata leggera e spensierata, portata avanti a ogni costo, era un sacrificio che doveva alla sua mortificata vanità o al rispetto che aveva per se stesso. Di tanto in tanto lanciava un'occhiata al viso triste e assorto di Margaret. Non le sono così indifferente come crede, pensò tra sé, se non smetterò di sperare. Nel giro di un quarto d'ora il suo modo di conversare era diventato lievemente sarcastico. Parlava di Londra e della vita in campagna, come se fosse consapevole di un altro io beffardo, timoroso del suo stesso sarcasmo. Il signor Hale era confuso. L'ospite a cena quel giorno era un uomo diverso da quello che aveva conosciuto alla colazione di nozze. Un uomo più frivolo, più scaltro, più mondano, così diverso dal signor Hale. Fu un sollievo per tutti e tre quando il signor Lennox disse che doveva andarsene in fretta se voleva prendere il treno delle 5. Si avviarono verso casa per salutare la signora Hale. All'ultimo momento fu lo stesso signor Lennox a rompere il ghiaccio. Margaret, non disprezzatemi, ho un cuore anch'io, nonostante questo mio parlare a vanvera. A riprova di ciò, credo di amarvi come non mai, se non vi odio per lo sdegno con cui mi avete ascoltato in quest'ultima mezz'ora. Arrivederci, Margaret. Margaret.